Lo faccio entrare, va bene. Passo le telefonate o prendo nota e dico di richiamare, dottore. Filtri, signorina, filtri. Allora le passo quelle più importanti, va bene? Facciamo quelle più importanti, eh? Filtri. Filtro. Forza, faccia così. Filtri, signorina, lei è il mio filtro personale. Blocchi il peggio, rompicoglioni, tutto quello che non ci interessa commercialmente. Non abbiamo tempo da perdere, signorina. E come faccio? Butti via la zavorra. Tenga l'essenziale, signorina, filtri. Allora filtro di testa mia, dottore. Filtri con la mia testa nella sua, che è meglio. Questo deve fare. Trapianti il mio cervello nel suo, signorina. Valuto allora. Ma lei lo sa cos'è una segretaria? Cosa? È semplicemente una persona che pensa con la testa del capo. Anzi, lo supera, lo anticipa. E filtri, signorina. Filtrerò allora. Appunto, valuti, filtri, ma con la mia testa, eh? Va bene, dottore. Buongiorno. Fiacca. Cosa? La mano. E cos'altro? Stringa più forte, sia più generoso. La mano? Sì, dicevo la stretta. Non va bene. Fiacca, debole. E stringa. La sua mano sembrava una mano morta. Mano morta. Morta. Dice. Fiacca, sì, guardi, me ne intendo. Io ne ho stretti a migliaia di mani, eh. Vi sento al tatto a voi altri. Ho stretto il giusto, no? Io stringo e basta. Il corpo comunica, ma che crede? Stringa. La mano. Le do un consiglio. Stringa più forte la prossima volta, le conviene, eh? Stringendo più forte mi comunica più energia, più forza, più coraggio, più determinazione. Forte, forte. Sì, fortissimo. Su, si metta comodo. Ma no, non lì, di là. Certo, grazie. Senta, signorina, io voglio quel prospetto entro le 12. Senta anche quelli della programmazione, lo devo studiare in mattinata, capito? Questione di vita o di morte. E scherzavo, naturalmente. Però me lo invii per email tra un'ora al massimo. Questione di vita o di morte. Ecco. Grazie. Vedo che ha capito alla perfezione. Lei è veramente preziosa. Spero di farcela. Mancano ancora i dati aggiuntivi di alcuni prodotti e se dalla programmazione non me li danno, non posso passarglieli, dottore. Alla programmazione hanno chiesto tempo. Non dipende da me. Non dipende da me, dottore. Li voglio per le 12. Lei deve farcela. Ma che scherziamo? Mi sta dicendo che non ce la fa? Non mi sta dicendo che non ce la fa, vero? Si ricordi che lei è ben retribuita, signorina. Inquadrata in fascia 4 professional. Le diamo anche la 14ª, si figuri. L'anno scorso ho avuto pure un aumento stipendiale. Possibile, a lei. Guarda qui. 2 anni fa ha chiesto un'aspettativa per motivi di famiglia. E l'abbiamo accordato subito. 3 anni fa risultano 8 giorni di assenteismo. Ha perso anche il premio di produttività. Ma se li vuole guadagnare, sì o no, questi soldi? Ma che stiamo scherzando, signorina? È vero. Fortuna la 14ª e anche l'aumento stipendiale, dottore. Gli 8 giorni sono di malattia. Broncopolmonite, dottore. Mi dispiace. Non sa che sudate, dottore. Mi sono imbottita di antibiotici. Ero proprio a pezzi, dottore. Broncopolmonite. Una brutta bestia. Sì, broncopolmonite. Una malattia del cazzo, ma figuriamoci. Lei scoppia di salute. È così bella in carne. Con quelle belle tette. Sudate, sì. Che belle tette, signorina. Ha visto però? Noi gliele diamo sempre puntualissimi, quattrini, e lei non ci sputa sopra. Deve essere puntuale anche lei, mi raccomando. Allora? Ha capito cosa le ho chiesto o debbo rinfrescarle la memoria? Certo, dottore. Certo che li avrà per le 12. Ho solo detto che sono tante cose. Tante cose, dottore. Non mi metta fretta, dottore. Gliela metto, invece. Me la mette, certo, dottore. Spero solo di farcela. Sono in ritardo. Gliela metto, signorina. Vedrò di farcela, dottore. Ma lei può farcela. Sono sicuro che non permetterà a se stessa di non produrcela nei tempi previsti, questa cosa. Il suo attaccamento all'azienda, la dignità che prova nei confronti del lavoro. Insomma, questione di vita o di morte. E su, facciamo l'impossibile, che ne siamo capaci. Ci sto lavorando, ma il tempo stringe, dottore. Il tempo stringe, signorina. Stringe, stringe, dottore. Stringe, appunto. E allora stringiamo. Prendiamo per il toro per le corna, eh? Che le dice, signorina? E lo prenda quel toro per le corna, mi raccomando. Lo prenda per le corna, signorina. Prendiamo il toro per le corna, certo. Prendiamo il toro per le corna, dottore. Per le corna. Va bene, va bene. Ci conto, allora. Sarà fatto. Vorrei farle notare che il ritardo di 10 minuti. Una bella insolenza, non trova? In ritardo, ma veramente? In ritardo, precisamente. Oggettivamente in ritardo. Il tempo, almeno quello, non mente. Non me ne sono accorto. Possibile? Forse l'orologio, non lo so. Forse l'orologio è indietro, vedrà che sarà per quello. Mannaggia a te. L'appuntamento era per le 11. Sono le 11:10, lei è oggettivamente in ritardo. E poi sono solo 10 minuti, non sarà mica la fine del mondo. Non lo sarà. Tutto è irrisorio, volendo. Comunque è una mancanza di rispetto oggettivamente intollerabile. Una cosa arrogante, davvero, mi creda. Una cosa arrogante, ma non tanto nei miei confronti, quanto nei confronti dell'azienda, perché in questo momento io rappresento l'azienda, anzi, io sono l'azienda. E l'azienda non sopporta oggettivamente ritardi. C'è un tempo per tutto, lo sa? C'è un tempo per farsi le proprie storie, non mi importa neanche quali. Uno può scopare con i coccodrilli, può impiccarsi se gli va, ma quando entra qui dentro deve aver chiara una cosa: entra nel tempo dell'azienda. E lei è in ritardo di 10 minuti. Questa cosa non ci piace. Per l'azienda? L'azienda. Certo, e cos'altro? Lei vorrebbe entrare in azienda ma arriva in ritardo. Chi arriva in ritardo è fuori, capisce? Pensavo di averle spiegato che ho fatto solo anticamera. Ero lì, seduto di fronte a lei, aspettando tranquillo il mio turno. Mai mi sarei permesso di arrivare in ritardo. Se uno arriva in ritardo a un colloquio di lavoro, allora non ha capito niente, dottore. Mica sono così stupido. La sua segretaria potrà confermarglielo. Doveva essere più puntuale. E poi non sono ancora in azienda, anche se mi piacerebbe moltissimo. Ho bisogno di lavorare. E poi la vostra è un'azienda importante. Fate fatturati esorbitanti, mi sono informato. Vulcanica è davvero un gioiello di azienda, che non lo so. Appena letta l'inserzione ho inviato il curriculum di corsa. Ho detto, se mi prendono... Già, noi cresciamo del 16% ogni semestre. Per il prossimo contiamo addirittura di raddoppiare. Bisogna crescere, crescere. Il mercato è inclemente, caro mio. Crescere, crescere, crescere. Magnifico. Venire a lavorare in Vulcanica in questo momento è la mia massima aspirazione. Un'azienda molto solida, assolutamente leader sul mercato, molto performantica. Va bene, va bene, va bene, capisco. Qui a fine mese ognuno percepisce uno stipendio. Siamo scientifici. C'è un database al quale non sfugge assolutamente niente. Chi viene pagato deve fare il proprio dovere. Vede, se fossimo clementi con chi batte la fiacca, saremmo irrispettosi nei confronti di chi, al contrario, fa il proprio dovere senza campare pretese. È una questione oggettiva di giustizia. Sono stato chiaro? Oggettiva, certo. Oggettiva. Oggettiva. Il discorso non fa una piega. Per l'azienda, certo. Per l'azienda. Per l'azienda, certo, per l'azienda. Ma come, lei intende mettere in dubbio quello che pensa l'azienda? Solo per questa cosa dovrei mandarla via a pedate nel culo. Ma si rende conto? Non ho capito. Ha bisogno o no di lavorare? Io ho letto il suo curriculum, sappiamo tutto di lei. Sappiamo anche cose che a lei potrebbero sfuggire. È disoccupato, mi pare. Non lavora da 3 mesi. È scritto qui, io non me lo sono mica inventato. Uno per l'esattezza. Se togliamo i fine settimana saranno una ventina di giorni circa, dottore. Dai dati che abbiamo a nostra disposizione risulta che lei ha spasso da 3 mesi. A noi non sfugge nulla. Avrà da pagare delle bollette, dovrà mangiare, vestirsi. 3 mesi sono lunghi, sarà in difficoltà, annasperà di brutto. Ma lei non sta lavorando, se ne rende conto? E sua moglie che dice? È contenta di avere dentro casa un fannullone, un disoccupato? In realtà sono in attesa da solo un mese. Ho messo da parte dei risparmi, ci campo. Tengo tutto sotto controllo, dottore. Pago le bollette, riempio il frigorifero. Comunque adesso è senza lavoro. È un disoccupato. Ma non le fa paura questa parola? Disoccupato. Disimpegnato. Inattivo. Io sarei terrorizzato al suo posto. Ho bisogno di lavorare. Disoccupato. Ho bisogno di lavorare, certo. L'azienda dove lavoravo prima è fallita. Un buco spaventoso. I proprietari hanno fatto un sacco di pasticci. E così adesso sono a spasso. Lei ha perfettamente ragione. Hanno sbagliato investimenti. Un socio si è sputtanato tutto col gioco d'azzardo. Ha dilapidato un bel patrimonio. Cose grosse, dottore. Così l'azienda è saltata in aria a rimetterci sempre noi dipendenti. Disoccupato. Occupato. Pensavo di essere stato puntuale, ecco cosa. Se le dico che ero già qui 20 minuti fa, mi deve credere. Ma lei adesso è oggettivamente un disoccupato. Le sarà chiara, spero, la sua condizione. È orribile. Lei non ha più un lavoro, ma si rende conto? Un disoccupato può deprimersi. E deprimersi è un costo per la società. Il depresso costa, deve ingurgitare farmaci, si taglia, si provoca delle ferite, inciampa, causa incidenti stradali, certi persino si uccidono. E l'azienda deve risolvere il problema sociale. Non ne faremmo volentieri a meno, mi creda, per una serie di questioni piuttosto complesse che non le sto neanche qui a spiegare. Chi entra nell'azienda deve produrre ricavi. È una semplice questione di sopravvivenza economica. A Vulcanica assumiamo solo persone davvero motivate che fanno crescere i fatturati. Solo di questo ci importa. È la mission. Crescere, crescere, crescere. Ci piace vedervi gagliardi, mossi da input creativi, performantici. Insomma, è un imperativo assoluto dare il massimo. Per se stessi, sa, per la sua vita deve farlo. Certo. E allora cosa fa lei? Mi arriva in ritardo. Tutto questo è imperdonabile. Sì? Mi scusi, dottore. Che c'è? Ho il generale Mannirone al telefono. E che vuole? Sta filtrando, signorina? È il generale Mannirone, un pezzo da 90 dell'esercito, dottore. Sì, ma cosa vuole? Non lo so, dottore. Ha insistito così tanto, dottore. È già la terza volta che chiama. Allora me lo passi, su, alla svelta. Ecco. Buongiorno. Buongiorno, generale. Buongiorno, buongiorno. Come sta, generale? Tutto bene. E lei? Benone. Sgobbo, come sempre. Stiamo lavorando bene? Troppo morbidi. C'è troppa democrazia, generale. Mettono paletti dappertutto questi stupidi che governano. Leggi, divieti, statuti, precetti, tasse. Non abbiamo la mano libera, generale. La modernizzazione non avanza. Paletti, generale, paletti. Troppa democrazia, ha ragione. Uno non può neanche sparare in bocca a un comunista, e che cazzo? E appunto, bisognerebbe fare una legge, bisognerebbe toglierli di mezzo questi disfattisti del cazzo. C'è già la legge marziale, quella funziona, li metti tutti al muro. Già, che stupido, basterebbe qualche bel plotone d'esecuzione e di volontari ce ne sarebbero disposti a bucherellare quei disfattisti. Li metti tutti al muro. Islamici, comunisti, froci, mondezza. Un bel repulisti. Non credono in Dio. Questo è il loro guaio. E noi dobbiamo educarli. Fanno schifo. Feccia. Ma prima o poi li sistemiamo tutti. Cosa mi dice di bello, generale? Volevo parlarle di un certo Mauro Sonda. Un amico di Comuni Amici. Ha presente? Un tipo fedele. Bravo ragazzo. Sonda? Ma quello indagato per truffa? Sonda Mauro, un suo dipendente. Persona moralmente retta, di famiglia impeccabile, cattolica, apostolica. Tutti cattolici neocatecumeni. Ha 6 figli. Sì, un piccolo pasticcio. Ha partecipato ad una piccola truffa. Ma rimedieremo. E che sarà? Cosuce, cosuce, mi creda. E poi è padre di 6 figli. Dovrà pure sfamarli, quei ragazzi. 6? 5 sicuramente, l'altro è in arrivo. Ci dà sotto, eh? Sta Sonda è uno che fotte, si vede. Maschio, fotte, un bravo ragazzo che fotte. Sì, certo, Sonda. Ma ora ho da fare, generale, un colloquio palloso, il solito comunista. La posso richiamare più tardi, così ne parliamo e troviamo insieme una soluzione. Intanto mi segno il nome. Com'è che ha detto? Sonda. Mauro Sonda. È dei nostri. Certo. Sonda. La richiamo io più tardi, o magari domattina. Lei intanto ci pensi e trovi al più presto una soluzione. Con tutto quello che abbiamo fatto per lei. Una soluzione, certo. Una soluzione, appunto. Sarà fatto, generale. Sono certo che un esperto come lei mi verrà incontro. Tra noi ci dobbiamo dare una mano. Dare e avere. Dare e avere, certo. Deve farlo. D'accordo, ci penso io. Allora? Voglio sapere il perché del suo imperdonabile ritardo. Mi interessa. Lei vuole lavorare con noi, ma arriva in ritardo. Vuole capire perché. E che ne dice di togliermi questa curiosità? Che ne dice? Ho fatto anticamera. Arrivo almeno sempre 5 minuti prima, per rispetto. Sono partito da casa con largo anticipo. Ho previsto tutto al millimetro. Spostamenti, semafori, traffico. Ero già qui alle 10:50, giuro. Ma non importa. Stavo scherzando. Su, si accomodi. Ha visto che belle poltroncine che abbiamo? Le ho fatte comprare io. L'azienda che le produce è oggettivamente la migliore azienda di poltroncine in Italia. Mi sono documentato e ho scelto le migliori. Sono imbattibili. Questa cosa mi riempie di soddisfazione. Infatti è molto comoda, devo ammettere. Ci si sta seduti divinamente. È ottima. È la migliore poltroncina sul mercato. Oggettivamente la migliore. Mi sembra solida. Però non mi ha ancora giustificato il motivo del suo imperdonabile ritardo. Io divento sempre più curioso. Allora? Guardi, ero già qui alle 10:50. Chieda alla sua segretaria. Sono stato puntualissimo. Puntuale, certo. Sta di fatto che sono le 11:20 e ho da sbrigare molte pratiche. Non credo di essere l'unico candidato, sa? Io ho nelle mani il destino di 40.000 persone che lavorano in 14 stabilimenti diversi e sono tutti ben contenti di servire Vulcanica. Comunque, lasciamo perdere. Non saranno certo 20 minuti a compromettere il suo ingresso in azienda. Però ne terremo conto. A noi non sfugge nulla. Abbiamo letto il suo curriculum. La scrematura è stata impietosa. Mi dispiace. La prossima volta dovrò prevedere oggettivamente un lasso di tempo imprevisto di almeno un quarto d'ora. Dovrò prevedere il tempo di anticamera. Ma sia più elastico. Le ho detto che stavo scherzando. Ah, sì, va bene, ma non si metta strane idee in testa. Guardi che sono una persona corretta. Rispetto sempre i tempi degli appuntamenti. È l'ansia che mi sprona ad esserlo, dottore. L'ansia? L'ansia, dottore. A noi non piacciono gli ansiosi. L'ansia invece rende tutti più attenti, più efficienti. L'ansia è fortemente produttiva nel lavoro dipendente. L'ansia, dottore. Bisogna essere più sicuri di sé, altro che ansia. Cercherò di esserlo meno. Cercherò. Voglio sperarlo. Al di là del motivo, però, questa volta non ha onorato l'orario. Mi pare la Palissiano. La Palissiano, certo. La Palissiano, certo. Monsieur La Palisse. Proprio lui? La Palisse. La Palissiano, certo, ha ragione. Non sono io che ho ragione. Guardi, è Vulcanica che ce lo chiede. Sacrosanto. Vulcanica. Vulcanica, certo. Noi abbiamo un codice etico nei confronti dei nostri clienti. Non le sfuggirà questa cosa, immagino. Nessuno può permettersi di rubare il tempo all'azienda, perché chi ruba tempo all'azienda lo ruba direttamente al cliente. Il cliente non ha tempo da perdere, capisce? Il cliente è sacro, il cliente deve essere coccolato, fidelizzato, accarezzato. E noi, come le dicevo, abbiamo un codice etico, oggettivamente. Il codice etico, certamente. Ne sono perfettamente a conoscenza. Ho fatto diversi corsi, mi sono formato e ce lo dicevano a quei corsi quei tipi. Il contatto con il cliente è fondamentale. Dovete usare la massima cautela, ragazzi, che so, anche lo sguardo per caso, fissarlo troppo il cliente, ecco, tutto questo potrebbe intimidirlo, metterlo a disagio. Anche il tono di voce deve essere calibrato e giusto, sillabare in modo armonico le parole, la voce deve avere la giusta intonazione, mai troppo bassa, mai troppo alta, il cliente deve essere sempre al centro dell'attenzione, mai metterlo a disagio, mai contraddirlo, mai cercare di accelerare un passaggio, mai farlo sentire un fesso, mai insistere, mai forzare le situazioni, mai e poi mai dargli delle informazioni sbagliate o dirgli una cosa per un'altra, mai parlare di politica, mai parlare di religione. Va bene, va bene, ho capito, ho capito. Capito? Ma lei, per caso, fuma? Sì. Cosa? Sigarette. Lei non fuma invece, immagino? Io fumo il sigaro e la pipa. Ma lei non trova volgare il fumatore di sigarette? Forse sì, un po' volgare lo è. La sa quella storiella della sigaretta? Ma quale storiella? Sa dove comincia e finisce una sigaretta? Che cosa vuole dirmi, sia più chiaro? Comincia con il tabacco e la carta. Poi c'è il filtro e dopo il filtro un bel coglione che la fuma. Certo, un bel coglione, come no, certo. Appunto, un coglione fatto e finito, un coglione fatto e finito, cos'altro? Ma lei lo trova volgare, sì o no? Sia chiaro, non stiamo a portarci per il culo, risponda. Sono d'accordo, le ho raccontato la storiella della sigaretta, no? Chi fuma sigarette non è il minimo rispetto per gli altri, è una debolezza imperdonabile. Lei quante ne fuma? 25 al giorno. Quando mi sento nervoso anche 30 però, mannaggia, ma è raro che io mi senta nervoso, succede davvero poche volte, direi che è molto raro, pochi giorni l'anno e poi quasi sempre di domenica, non so perché, ma la domenica forse perché non lavoro, mi sento strano, più nervoso, è una giornata vuota la domenica, allora fumo, fumo, fumo parecchio la domenica, a rotta di collo. 30 sigarette. Ma sono tantissime. Lei capisce che io non mi pongo un problema suo personale, ma siccome il fumo nuoce gravemente alla salute, uno che fuma nei locali di proprietà dell'azienda, cosa peraltro proibita dalla legge, mina anche la vita di tutti gli altri dipendenti. E siccome tutti i dipendenti producono profitti per noi, lei, fumando nei nostri locali, intaccherebbe in modo terribile la vita dei dipendenti e di conseguenza quella dell'azienda. Certi giorni ne fumo 27. Ma lei è un efferato tabagista, lo sa? L'azienda ha dichiarato guerra ai tabagismi. A Vulcanica non si fuma. Questo dovrebbe saperlo. È vietato. Costa. Costa la vita. Cercherò di fumarne di meno. Fumerò durante la pausa pranzo. Anzi, mi sottoporrò a uno di quei trattamenti intensivi per smettere del tutto. Conosco queste storie, sa? Adesso ce ne sono un fottio di rimedi grandi. Sì, tutti grandiosi. Guardi, li conosco davvero. Training autogeno, massaggi, psicofarmaci, basta la volontà. Metterò l'orecchino se vuole. L'orecchino? Sì, fa un trattamento con un dispositivo magnetico. Non lo conosce? No, non lo conosco, lo ammetto. Ma lei lo faccia, eh? E metta quel cazzo di orecchino da frocio. E pensi all'azienda, eh? Ma guardi che in qualsiasi azienda non si fuma. Quando sta per accendersi una delle sue puzzolenti sigarettacce, pensi alla nostra azienda e reprima il desiderio. Comunque sia, Vulcanica non si fuma. Chi viene beccato sa che perderà il posto di lavoro. Li bracchiamo, li filmiamo senza pietà. Ne ho cacciati 3 solo ieri, sindacalisti e fumatori. C'è un'incidenza mostruosa di fumatori tra i sindacalisti. Lo sa, dati impressionanti, mi creda. Fumano la pipa quegli stronzi, il sigaro. Sono frustrati, vivono male il loro lavoro. Allora cosa fanno? Fumano, fumano. Ma cosa cazzo vogliono dimostrare? Sono arroganti e noi dobbiamo liberarci di queste zavorre. Fumo solo a casa e per strada. Non ho mai fumato in presenza di un cliente, posso giurarglielo. Mai fumare davanti al cliente. Ce lo dicevano a quei corsi di formazione, lo ricordo perfettamente. Mai, per carità. E io non fumavo. Ero ligio, insomma. Se non si fuma, non si fuma. Non fumavo davvero. Ce l'avevano detto durante i corsi quei tipi. Vietato! Vietato! E se il cliente per caso è un fumatore? Su, risponda a questa domanda. Forza! Mi adeguo. Allora fumo, fumo un sacco, sono un fumatore, che cavolo mi costa, fumo, fumo, fumo quanto mi pare e piace, allora in quel caso fumo, e che cazzo! Adesso invece le faccio un'altra domanda. Se il cliente per caso è un fumatore incallito che sta cercando di smettere, Ce ne sono un sacco in circolazione, pullulano. Il povero cliente sta cercando di smettere, in apnea, ha una voglia matta di mettersi in bocca una paglia. E lei quale strategia adotta in questa circostanza? Ho una rara capacità. Questo non l'ho scritto sul curriculum, ma le garantisco che sono una specie di sensitivo, capace di capire a colpo d'occhio se chi ho di fronte a me fuma o detesta di fumare. Io lo vedo dagli atteggiamenti, dal movimento delle mani, dalle mani, dalle dita di quelle mani, certo, non scherzo, io lo vedo dalle dita, dalle unghie. Le unghie mi dicono tutto, comunicano, dicono, lei le guarda le unghie? Sento gli odori, penso di avere ormai una certa esperienza, ecco, lei fuma dei sigari toscani, non è vero? Lei come fa a saperlo? Semplice osservazione, alle labbra del fumatore di sigari toscani, non so perché, ma lo sento. Toscani, certo, ma di che tipo? Vediamo se indovina. Non è tipo da extravecchi e neanche da Garibaldi. Garibaldi proprio no, quelli... Anzi, i Garibaldi sono sigari rangidi. Li toglierei persino dalla circolazione se per caso dipendesse da me. Però costano meno. Lei è un uomo di classe. Sono sicuro che fumerà solo l'antico. L'antico, ecco. L'antico. Lei è un fumatore di antico toscano, altro che Garibaldi. Ho indovinato? Soprattutto l'antico. Ma anche gli extravecchi non mi fanno schifo. Io amo gli extravecchi. Hanno un sapore arcaico quei sigari. Complimenti. E poi i gusti sono gusti. Anzi, sa che le dico. Una volta li fumavo anch'io gli extravecchi. Sono favolosi. Quello è fumo. Vero fumo. Pastoso. Ah, che meraviglia. E poi un bel cognac di quelli giusti. Un sorso e una boccata. Certo, un buon Martel. Del cognac, fumo pastoso e cognac. Martel, vedo che se ne intende, eh? Certo del Martel o dell'ottimo Armagnac. Cognac. O del buon whisky. Anche. Alcol e nicotina. Vero fumo. Libidinosi, quei sigari non trova. Parole sante. Ecco, adesso sappiamo anche questo. Non le bastavano le 30 rancide, puzzolenti, schifose sigarette. Anche gli extravecchi fuma. Apra la bocca. Oh, mamma mia, ha i denti tutti gialli. Un alito pestilenziale, ma ci credo, con tutto quello che fuma. Lei puzza, se ne rende conto? Non è vero. Ma guardi, tutti i denti marci. Costano i dentisti. Senta che alitaccio. Dice. Ma con quell'alitaccio mi spaventa il cliente. Mentre parla dei nostri prodotti, il suo alito inquina la vendita. Se ne rende conto, vero? Però anche lei ha ammesso di fumarli, se non ho capito male. Alcol e nicotina, pastoso e poi un bel cognac. Però... io non li fumo in ufficio, sia chiaro. Io non ho mai fumato un sigaro in ufficio in vita mia. Eppure, le garantisco che amo molto fumarli. Faccio fatica a frenarmi, ma l'azienda ci chiede questo sacrificio e noi dobbiamo garantire un comportamento consono. Consono? Se è vietato fumare, allora... Non si fuma. Ha ragione. Regole, appunto. Capisco. Un capo deve sempre dare il buon esempio. No, è qui che sbaglia. Un capo può fumare quello che gli pare. Volessi fumare della marijuana, potrei. Ma che capo sarebbe quello che non può disporre del proprio potere? Potrei fumare quello che mi pare, se solo volessi. Ma io ho un orizzonte morale, che è sempre naturalmente quello dell'azienda. Un orizzonte morale altissimo, rigoroso. Giusto! Le consiglio di ridurre, anzi, smetta. Abbiamo un progetto sicurezza condiviso persino da quei fannulloni di sindacalisti. Potrei approfittare di questo nuovo incarico e ridurre progressivamente le fumate. Anzi, sa che le dico? No, cosa mi dice? Ho competenze informatiche. Potrei farmi un programmino in Excel. Ci metterei un attimo. L'algebra non inganna. L'algebra dice sempre la verità. Potrei ridurre il danno gradualmente 2 sigarette in meno la settimana. Così in un paio di mesi smetterò definitivamente. Che ne pensa? Questa cosa si potrebbe pianificare facilmente. Diventerebbe così un codice morale condiviso da tutti. Che ne dice? Pensi a smettere lei intanto. Non è ancora un nostro dipendente. Era solo un'idea. Ne terremo conto. Sicuro. Stiamo filmando e registrando tutto, cosa crede? Analizzeremo per bene ogni suo comportamento preliminare. Abbiamo un'equipe specializzata che studierà ogni vostro movimento. Anzi, se la cosa può incuriosirla, dai grafici che ho qui davanti risulta che lei ha dei picchi altissimi di sorriso. Lei ride troppo, se ne è mai accorto? Sono sempre stato un tipo allegro, devo ammettere. Stona? La simpatia è un bel incentivo alla vendita. Mi piace ridere, mostrare allegria, non va bene per caso? Beh, dice che non va bene. Perché non va bene, scusi? Non voglio dire che sia una cosa negativa, per carità. Ma chi ride troppo non mi piace. Non ci piace Vulcanica se uno ride troppo, qui... Qui monitoriamo al millimetro tutti i comportamenti degli aspiranti e impiegati. È l'azienda che ce lo chiede. C'è un report, sa? In quel report ci sono tutte le informazioni che ci servono per capire con chi abbiamo a che fare. Ogni dipendente è un potenziale nemico. Un report? Ormai non ci sfugge più nulla. Questo vi deve essere chiaro. Noi sappiamo tutto di voi. Lei, per esempio, è orfano di padre. Risulta dall'anagrafe centrale. Se vuole le sviluppo l'albero genealogico, eh? Anzi, sa che se glielo stampo pure. È vero. Mio padre se n'è andato 20 anni fa. Tumore. Al fegato. Ma come fa a saperlo, Cristo? Noi sappiamo tutto. Ce ne freghiamo altamente della privacy. Il rispetto della privacy, stronzate. Vi entriamo nei PC, abbiamo i tabulati delle vostre chiamate, riusciamo a spiarvi, prendiamo informazioni. Noi facciamo quello che ci pare, capito? È il nostro mestiere. Un brutto tumoraccio al fegato. È crepato in pochi mesi. È stata dura a riprendersi. Mia madre, però, è ancora sanissima, viva e vegeta. Ha 80 anni, ha delle analisi del sangue perfette. Mangia con grande appetito. E l'altro giorno ha persino cucinato la trippa, roba da leccarsi i baffi, dottore. Che Dio la benedica. È mio padre che ha abbassato la media. Guardi, guardi qui, Anche suo nonno è morto di tumore al fegato. Fumava troppo, si vede. O beveva troppo. O beveva e fumava troppo in contemporanea. Lei dovrebbe dimostrare la fortuità della cosa, altrimenti questa ereditarietà negativa deporrebbe a suo sfavore. Ci sono degli impiegati che muoiono troppo presto e noi abbiamo calcolato che tra retribuzione e contributi, se non campano almeno fino a 60 anni, noi ci rimettiamo. L'azienda ci chiede il massimo del rendimento al minimo della retribuzione. Questione di sopravvivenza. Il mercato è spietato. La globalizzazione è stata feroce e noi dobbiamo difenderci. Ci attaccano da tutte le parti. I cinesi ti attaccano, i giapponesi, dai paesi dell'est, gli indiani. E noi dobbiamo ridurre drasticamente il costo del lavoro. Abbiamo dichiarato guerra alle malattie e la profilassi che utilizziamo è di tipo informatico. Informazioni, informazioni. Se solo 15 dei nostri indipendenti si ammalassero, la perdita dei ricavi a fronte delle spese di previdenza e assistenza potrebbe risultare catastrofica. Non possiamo permettercelo. Rischiamo di non raggiungere il budget annuale, perdere i premi e indebolire la nostra presenza sul mercato. Quindi l'assenteismo è il nostro nemico numero uno. Assenteismo? Malattia, diciamo. Per noi non ci siete. Non ci importa perché. Assenteismo e basta. Altro che malattia. L'ultima influenza che ricordo si è manifestata 8 anni fa. Ma fu un anno davvero catastrofico, dottore. Si ammalò almeno il 55% della popolazione attiva. Questo può controllarlo, non dico fesserie. Stetti a letto 1 settimana sotto antibiotici e tornai in ufficio che ero uno straccio. Non stavo in piedi, avevo mal di gola, mi girava la testa, avevo gli occhi arrossati, deglutivo male, imbottito di farmaci di tutte le specie, però al mio posto, in prima linea, può controllare se vuole lei che sa tutto. Lo so, è scritto qui nel computer. Una bronchite. E che cazzo, eh? Bisogna coprirsi bene d'inverno, caro mio. Non ci si può permettere il lusso di bloccarsi. Ammalarsi significa creare un trauma tra imprenditore e dipendente. Un trauma intollerabile. faccio anche delle cure preventive. Sono 7 anni che mi vaccino a mie spese. Che altro devo fare? D'estate in genere uso le ferie per fare delle cure preventive per evitare malanni alle prime vie respiratorie. A Vulcanica il vaccino è obbligatorio. Paga l'azienda. È scritto sul contratto. Noi ci teniamo alla salute dei nostri lavoratori. E che crede? Molto bene. Sì. Ciao tesoro. Tesoro mio, dove sei? Ma sì, sì, come no, adesso... No, adesso non posso, dai. Ho un colloquio col solito comunista. Ci sentiamo più tardi, sì. Ciao tesoro, ti chiamo io, stai tranquillo, amore. Ciao, ciao, ciao, ciao. Adesso le faccio una domanda. Apra bene le orecchie. Suo padre è in ospedale. Gli hanno dato 6 ore di vita. Ma lei ha un appuntamento con un cliente proprio nell'ultima ora che resta da vivere al suo vecchio genitore. Allora, che fa? Su, me lo dica. Sposto l'appuntamento. Cosa? Sposto l'appuntamento. Lo sposta. Allora lo anticipo. Concludo l'affare, poi chiedo un permesso non retribuito e corro alla clinica. No, lei allora non ha capito. Ma mio padre sta morendo. Ricordo che il cliente in questione deve investire un sacco di soldi. 100.000 euro. E noi siamo un soffio del raggiungimento del budget. Adesso la situazione le sarà veramente chiara. Resta il fatto che sto per diventare orfano. Ma stia attento a quello che dice. Lei mi sembra un buon diavolo. Questa è una simulazione. E sia più scaltro. Lo dico per lei. Su, allora? Mettiamola così. Col cuore in gola. Arrivo all'appuntamento col cliente. Ho la testa confusa. No, no, no. Lei non può essere confuso quando incontra un cliente in sala consulenze. Non può permetterselo. Non deve dirmelo. Sciocchezze. Ma mio padre sta morendo. Ma lei che cosa può fare? Perché si fa tutte queste domande? Ha una magnifica occasione per scacciare l'angoscia. Tanto suo padre morirà. Lei non può fermare il decesso. È un fatto naturale. Suo padre morirà. Ma lei rischia di perdere il cliente, di scostarsi dalla percentuale di raggiungimento del budget. In pratica mi sta comunicando che accetta il rischio di far fallire l'affare. No, no, non ci siamo. Le ricordo che mio padre sta morendo. Io ho solo poco tempo per raggiungere l'ospedale e abbracciarlo per l'ultima volta. Si faccia vedere un'idea, subito. Chiedo un permesso. Un permesso? Un permesso. Ma lei è pazzo, ma chiede un permesso. Vado all'ospedale, una causa di forza maggiore. Non può, è in orario di servizio. Un permesso breve di un'ora. Breve, ma allora non ha capito proprio un accidente. Sto perdendo mio padre. Mi ha già ricordato che suo padre morirà ugualmente. Gli hanno somministrato la morfina, sta per tirar le cuoia, ha perso conoscenza. Non riuscirà neanche a riconoscerlo, tanto creperà ugualmente. Non posso lasciare mio padre morire da solo. Mi sta chiedendo di fare una cosa disumana. E se fosse il suo di padre? Ci pensi, ci pensi. Suo padre in un lettino d'ospedale che sta crepando. È arrivato già il prete, ha chiesto di lei. Ci sono tutti i suoi fratelli al suo capezzale. Sua madre sta piangendo, sta per perdere i sensi. Suo fratello la sta portando via, trascinandola. Il prete è arrivato per l'estrema unzione. È suo padre che sta morendo, lei non faccia il furbo. Ma non lo capisce che mi rimarrebbe il rimorso. E mio padre lo capisce. Mio padre sta morendo. E io sto come un cretino davanti a un cliente per vendergli un prodotto. Ma si rende conto della situazione? È assurdo! Mio padre sta morendo e io sto a discutere con questo cliente di una polizza vita! Sta tirando le cuoia, mi rimarrebbe il rimorso! Rimorso? E per che cosa, scusi? Adesso mi tira fuori il rimorso, ma cosa c'entrano i sentimenti col nostro lavoro? No, questo è fuorviante! Quello di non aver salutato mio padre in punto di morte! Questa è la sua unica preoccupazione in quel momento? Esatto. Errore imperdonabile. Perché? Ho cercato di spiegarglielo. Ma quello che dice non ha una logica. Lasci perdere la logica, quella è fuorviante. Non c'entra col nostro lavoro. È fuorviante questa logica. Mio padre sta morendo. Lei è cattolico? Laico, non credo in Dio. Non credente, allora è un comunista. Quale comunista? Lei, un non credente comunista. Qual è il nesso, scusi? Me lo spiega? Che c'entra adesso il comunismo? Insomma, vedete comunisti dappertutto. È un incubo o cosa? Credo un fesso. I comunisti sono ormai solo nei libri delle favole. Cappuccetto Rosso, Cenerentola, il gatto con gli stivali, Harry Potter, e poi i comunisti coi colbacchi, bolscevichi, favole. Comunista, un fannullone di comunista. Comunista. Se non crede, ha un orizzonte morale laico. Quindi lei è un aspirante comunista, lapalissiano. E se lo fossi? Sarebbe incompatibile con l'azienda. Noi qui, i comunisti, non li vogliamo, sono disfattisti. Sa che non ci avevo mai pensato. A cosa? Di essere comunista. Io ne ho viste migliaia. Si nascondevano dietro i paraventi, fingevano. Poi, una volta entrati in azienda, cambiavano pelle. Ma lo erano già prima. Degli schifosi, comunisti, disfattisti, sindacalizzati! Dottore, ho il responsabile delle risorse umane da Roma. Vedo che non sta filtrando, signorina. Ho già stoppato diverse telefonate. Stoppato? 7 dagli stabilimenti, tutte piccole beghe. E poi dal partito, sempre per quelle raccomandazioni, dottore, ha presente? Stoppi, filtri, fermi tutto, signorina. Ci pensi lei a filtrarli, a stopparli, se li carichi? È quello che sto facendo. E lo faccia, signorina. Allora, chi è questo rompicoglioni? Da Roma. Il responsabile delle risorse umane, gliel'ho detto. Dice che è una cosa importante, non sono riuscita a bloccarlo. Importante. Vedrai quanto sarà importante. Ha insistito parecchio. Se vuole gli dico di richiamare. Su, me lo passi. Subito. Antonio, ti disturbo? Ma no, figurati. Anzi, mi fa piacere sentirti. Scommetto che sei stato in barca sabato scorso. Sicuro, una meraviglia. Mi sono scopato in alto mare una bosniaca di 15 anni. Gratis. Regalo di un amico. 15 anni, amico mio. Oh, regalo, eh? Mica male. Un vero amico. Dovevi vederla. E com'era? Stretta, stretta. Beato te, chissà che meraviglia. Non ci posso pensare. Dovrei venire a trovarti ogni tanto. Ma sì, in barca c'è posto. Aggregati, vecchio mio. Ti divertiresti, credi a un fesso. Queste ragazzine ti ridanno la vita. Sei solo un brutto porco, Antonio. Leonardo, ma ci si deve pure rilassare in qualche modo, eh? Si lavora così tanto, noi altri. Sei magnifico, sempre lo stesso, non cambi mai, eh? E tu? Che mi racconti di bello? Abbiamo un problema con quel sonda. Ma vedi un po' di sistemarmelo. L'anno prossimo ci sono le elezioni regionali. Ma dove lo metto, sto sonda? È un cretino patentato, un assenteista, eh? L'anno scorso è stato a casa 3 mesi. Adesso è pure indagato per truffa, quello scemo. E come faccio? Non mi è mica facile metterlo da qualche parte. E rischia pure il posto se lo condannano. Guarda che quello rischia sul serio. Gli si sono messi addosso, eh? Ficcalo da qualche parte, non ti manca il modo. Ma dove? Devo dirtelo io? Sì, ci penso. Ma tu dove lo metteresti un tipo del genere? Non sa fare niente, fa danni dappertutto, è una mina vagante quel cretino. Ma piazzalo all'ufficio stampa. Tanto lì sono tutti scemi, uno più uno meno non farà troppi danni. O mettilo col responsabile, il porco con la cravatta. Il contadino con la cravatta. Sì, quel mostro con la cravatta, imbarazzante. Sì, mi ha dato un'idea magnifica. Hai ragione. Lo sposto all'ufficio stampa, lo metto in fascia 1 professional, gli do un bel aumento stipendiale, così nessuno ci rompe più i coglioni. E almeno l'ufficio stampa danni non ne fa. Me ne occupo personalmente, stai tranquillo, sistemo tutto io. Allora penso io al passaggio. Considera la cosa fatta. Ci conto. Stai tranquillo, amico mio. Allora lo avverto. È già all'ufficio stampa. Insieme al porco con la cravatta. Col porco, il porco con la cravatta. Beh, buona giornata allora. A presto, ci sentiamo. A prestissimo. Ma cosa vuole questa qui? Ma proprio ha deciso di rompermi i coglioni, quella troia, eh? Io detesto i comunisti. La gente di sinistra è contro l'azienda. È un fatto caratteriale. Vedono sempre le cose storte dappertutto, sono disfattisti. Ma pensate a lavorare, barboni. Lei cosa ne pensa? Non so dire. Diciamo che non mi sono fatto un'idea su questa cosa, anzi, non mi pare un argomento. Cosa penso non dovrebbe interessarla. Mi giudichi professionalmente, invece? Guardi i master che ho fatto negli States, Chicago, New York, South Dakota, sono tra le migliori università al mondo. Ho letto. La sfido a dire che non è il curriculum di uno che in questi anni ha sviluppato una capacità professionale coi fiocchi che pochi hanno in questo paese. Mi dica cosa non va invece. La stretta di mano, fiacca, guardi il curriculum invece, mi giudichi da quello. Lei è stato un giovane studente universitario. A Bologna. Voto finale 110 e lode. Sono figlio di operai. D'inverno studiavo ed estate a farmi il culo come cameriere nei ristoranti. Sono stati anni durissimi. Vivevo in una stanza di 10 metri quadrati a Bologna, in periferia, via Massarenti. Solo per tornarci la sera dovevo stare un'ora sopra i mezzi. Antropologia. Esatto. Una materia affascinante. Non le sfuggirà, dottore. Una materia astratta. Come mai? Come astratta? Beh, non porta da nessuna parte. Non sono d'accordo. Questa è una sua opinione. La opinione di uno che pensa che l'unico bene supremo e insuperabile è il danaro. Infatti, lei è un disoccupato. La conferma di quanto dicevo. Antropologia. Ero giovane. Brancolavo nel buio. E poi ho fatto 1000 concorsi, ma erano tutti raccomandati. Mi fregavano sempre. Figli di notai, figli di avvocati in Cassazione, figli di professori universitari, figli di generali, persino di maggiori, carabinieri semplici, marescialli. Comunque brancolavo nel buio, non ci capivo un accidenti, questo è vero. Ecco, adesso va meglio. Ha capito quello che le stavo comunicando. Anni persi. È solo l'economia che regola la vita delle persone, nient'altro. Tutto il resto è passatempo, poesia. Si può sognare, ma si deve sempre tornare al dunque. Al dunque? Al dunque. So benissimo quello che voglio dire, altrimenti non starebbe qui a chiedermi di entrare in azienda. Un'azienda non ha le stesse leggi che stanno fuori dall'azienda. Dentro è diverso. Comincia un altro mondo. L'azienda è invincibile, è assoluta. L'azienda è una piramide, qui entriamo nel mondo mistico. Non so se mi sono spiegato. L'azienda è invincibile, se lo mette in testa. Guardi, adesso le faccio vedere il nostro filmato aziendale. Venga, venga qui, venga. Vulcanica ha un nome che dice tutto. Basta pronunciarlo per capire la sua forza. Noi crediamo nelle parole che diciamo. Vulcanica ha una storia che viene da lontano e ha i suoi antichi comandamenti. Innovazione, sviluppo tecnologico, formazione permanente intanto. Vulcanica ci crede. Vulcanica vuole amare i clienti e servirli con grande passione. Vulcanica pensa all'innovazione come motore e coinvolge al massimo nel lavoro collettivo le risorse umane. Vulcanica vuole aggredire il mercato con energia totale, senza paura del nuovo. Siamo i più forti, noi di Vulcanica, sempre determinati, attenti e responsabili. Vulcanica vuole vincere e crescere. Questa è la sua missione. Nell'ultimo semestre la crescita avanza a Vulcanica. Ricavi grandiosi, più 22%. EBITDA, più 30%. EBIT, più 33%. Dividendo, 2,05 per azione, in crescita del 35% rispetto all'esercizio precedente. Prosperiamo a vista d'occhio. Vulcanica è diventata una società europea con anima italiana, buon rapporto con il territorio e lungimirante strategia di espansione nel mercato globale. Siamo capaci come nessuno di vedere nel cambiamento un'opportunità immensa. Combattiamo strenuamente per ridurre i costi e semplificare il lavoro. Nessuno può fermare Vulcanica. Il profitto, la crescita, il consolidarsi del marchio, perché il nostro unico vero traguardo da raggiungere è legato al progresso sociale. incontrare i veri bisogni dei consumatori, anticiparli. Questa è la nostra vera missione economica. Niente e nessuno ci può fermare. Siamo innovativi per creatività e spirito di iniziativa individuale. Siamo rispettosi perché agiamo in maniera attenta sull'etica e anche genuini, lavorando in maniera semplice, dando fiducia ai giovani e alla flessibilità, che è oro in un mondo globalizzato e competitivo. Niente può fermarci. Siamo per tutti questi motivi imbattibili, forti, invincibili. Invincibile. Invincibile, certo, può esserne certo, eh? Ha visto? Guardi che io ho letto il suo curriculum, è pieno di stronzate. I curriculum sono ridicoli. Siete tutti bravi lì e avete fatto questo, quell'altro. Quando leggo un curriculum so già che qualcuno vuole farmi credere una cosa completamente fasulla. E il suo 110 lode in antropologia per me non ha nessun valore. Sa perché? Perché gli antropologi sono tutti comunisti, della peggior specie. Invece, caro antropologo, quello che mi interessa è quello che non c'è scritto qui dentro. Voglio capire cosa è disposto a dare all'azienda. Quello ci importa. Su, risponda. Mi piace di lavorare e penso di possedere una certa professionalità nel campo. Anzi, posso dirle in tutta onestà che mi considero un tipo di uomo capace. Sono un venditore nato. So tante cose, la cultura aiuta, mi creda, non bastano le competenze tecniche. L'autostima, come vede, non mi manca. So vendere, questo insomma mi pare abbastanza fino a prova contraria. Ma quale prova? Mi metta la prova. Non era un colloquio di lavoro, su? Mi metta la prova finalmente. Ma lei cosa è disposto a darci? Che cosa sono disposto a darvi? Che cosa sono disposto a darvi? Nessuno me lo dica, muoio dalla voglia di saperlo. Ma lo sapete benissimo. Io vi do un po' del mio tempo, molto della mia intelligenza, vi do un pezzo della mia vita, eh? Un pezzo della mia vita, vi do un pezzo della mia vita, la mia vita, capisce? Che non è infinita. Mi prendo le preoccupazioni per voi, non dormo magari la notte per voi, produco ricchezza per voi, molta ricchezza per voi, per voi. Per voi sogno di lavorare per voi tutte le notti, eh? Sì, sogno che sto lavorando. Ne produco una quantità enorme di ricchezza che però riuscirò a intercettare percentualmente in modo ridicolo. Ecco, io potrei passare un terzo della mia vita dentro la vostra azienda. Per questo io sono comunista? Noi vogliamo di più. Questa cosa mi sfugge. Cosa volete da me? Noi vogliamo tutto. Tutto cosa? Tutto. Dovrebbe essere più esplicito. Io non sono disposto a darvi tutto. Questo le deve essere chiaro, dottore. Ma io non ho capito. Bisogno no di lavorare. È a spasso da parecchio tempo, la famiglia. Questo non le sfuggirà, credo. Due figli piccoli di 4 e 8 anni. E per fortuna non è una donna. Una donna può sempre mettere al mondo figli. Si fanno scopare quelle troie, capisce? E poi restano ingravidate. Io sono un liberale, un cattolico, dico scopate, fate figli, ma se siete dei morti di fame, stateci attenti, i preservativi esistono. Comunque quando i preservativi falliscono ci sono i neocatecumeni, ci pensiamo noi ai vostri figli, lei quanti ne ha? Due figli piccoli, gliel'ho già detto, due figli piccoli. Solo due. Due figli, solo due figli. Due figli piccoli, e le sembrano pochi due figli? Sa quanto costano due figli? Solo due figli, lei dice, due figli. Eh sì, perché lei non sa quanto costano due figli. I figli vanno a scuola, i figli mangiano, si vestono, quei due figli fanno lo sport, vanno in piscina e poi libri, due figli. E lo sanno che hanno un padre comunista? Io non sono comunista. Non sono comunista. Non sono mai stato comunista. Mai stato comunista. Lo vuole capire o no? Non me ne frega un cazzo del comunismo. Vorrei solo essere rispettato e valutato per quello che valgo. Siete tutti comunisti. Prima che vi portiamo nell'azienda per educarvi. Una volta entrati, capite? Comprendete che il comunismo è un'aberrazione. La parità sociale non esiste. Voi dovete soccombere e lavorare. Pensiamo noi a tutto il resto. Più libertà economica ci vuole. Più libertà economica! Ma perché ce l'ha tanto con i comunisti? Ecco qua. Lo sapevo, è tutto scritto qua nel computer. Suo nonno era anarchico. Ecco, lo sappiamo. Nonno Spartaco. Faceva il calzolaio. Allora? Non va bene per caso? Suo nonno invece che faceva? Me lo dica. Posso immaginarlo. Massone. Ecco. Suo nonno era un lurido incappucciato, non è vero? Lo ammetta, un massone puzzolente, un lercio. Suo nonno era un fascista, lo so, un lercio. Lasci perdere mio nonno anarchico, che Dio l'abbia in gloria. Una persona pulita, pulita di una pulizia morale che lei se la sogna. Pure partigiano, guarda qui, ha ucciso 3 fascisti il nonnetto. Un anarchico partigiano, ma si rende conto? Sì, è stato in montagna coi partigiani. Ha liberato la città di Ascoli, nonno Spartaco, un vero democratico. Ne vado orgoglioso, una persona speciale. Ha imbracciato le armi quando arrivavano i tedeschi, la Gestapo, mio nonno. Non lo dica, le do questo consiglio, un nonno partigiano anarchico, ma si rende conto? E allora? Erano degli assassini senza cuore, dei ladri, rubavano. Non le permetto io di dire queste cose, ha capito? Nonno Spartaco confinato a Ventotene, anarchico! Un anarchico, un comunista! Non mi permette lui, ma non si permetta lei! Sì, come no? Ti penso sempre, tutto il giorno che ti penso, ma adesso non mi rompere i coglioni! Su, stia ben attento. Adesso le farò delle domande. Me le faccia queste domande. Non ho mica paura. Io non ho paura di lei. Non avrò questo posto di lavoro, ma non ho paura di lei. Ho del fegato io. Su, mi dica. Qual è la parola che più l'ha attratto nella vita? Su, su, comunista. Felicità. E perché? Perché penso che la felicità sia un bel sentimento. Felicità, liberazione, sì, felicità, non va bene? La felicità? La felicità. E che c'entra? Ma come, la felicità? Lei non vorrebbe essere felice? È uno stupido idealista, la felicità non lavorerà mai per noi. Resterà un disoccupato a vita. Lei è infelice, un uomo infelice, mi dispiace. Si sta sbagliando di grosso. Guardi, i ricchi sono infelici, stupidi, ci pensi? Stupido sarà lei, non ha capito niente. Non ha capito come va il mondo, i ricchi sono felici, lo sa perché? Perché sono ricchi, ricchi e felici, e lei invece è uno stupido comunista. Non è colpa nostra se non vi facciamo entrare nelle nostre aziende, non c'è spazio per sognatori comunisti. Comunista! Su, risponda allora. A cosa? A quello che le chiedo, un colloquio di lavoro, sono io che faccio le domande. Cosa vuole sapere? Le farò delle domande di cultura generale. E su? Me le faccia queste domande, su, che aspetta, me le faccia queste domande, risponderò. Gliene faccio una facile. Che cos'è un relè? Facile! Se credeva di infinocchiarmi, è precisamente un dispositivo in grado di aprire e chiudere un circuito, però, a differenza dell'interruttore, non viene azionato a mano, ma da un elettromagnete. Vabbè, l'ha imparata a memoria, si sente che lo dice a pappagallo, su, e mi dica che cazzo è questo elettromagnete, una calamita, su, forza, allora! Facile! È un congegno costituito da una bobina di filo avvolta intorno a un nucleo di materiale magnetico. Già, lei è un antropologo, una persona colta, conoscerà bene la geografia, voglio pensare. Me la cavo. Vediamo se risponde a questa. E su, che aspetta, mi faccia la domanda che io risponderò. Qual è la circonferenza della Terra? Banale. Fino a ieri 40.152 chilometri per l'esattezza, ma se a lei risulta un altro numero me lo dica pure. L'altezza del Monte Everest. 8.872 metri, né uno di più né uno di meno. Lo stato più grande dell'Africa. Il Sudan, e ha una superficie di 2.505.810 chilometri quadrati, di cui 129.810 costituite da acque interne. Le risulta, dottore? E dove si trova il lago Titicaca? Comunista. Si trova a Puno, all'estremo sud del Perù, è il lago più alto del mondo. E il Mississippi? Dove si trova? È un fiume. Io voglio sapere dove si trova, gliel'ho chiesto. I fiumi corrono, dovrebbe saperlo. Dove? Bagna 8 stati americani: Minnesota, Wisconsin, Illinois, Missouri, Tennessee, Arkansas, Mississippi, Louisiana. Pensi, a scoprirlo nel 1823 è stato un italiano, un certo Giacomo Costantino Feltrami. È un fiume enorme che scorre per 3.778 chilometri, impressionante, non trova? Attraversa tutta la grande pianura che si allarga tra i monti Appalachi e le montagne rocciose. Le basta! Sulla cultura generale è imbattibile, eh? Pensate sempre di sapere tutto voi comunisti. Su, mi faccio altre domande, ci stavo prendendo gusto, eh? Pensavo ad infinocchiarmi. Lo stato più grande dell'Africa. Va bene, Non abbiamo altro da dirci. Forse le faremo sapere. Io ho bisogno di questo posto di lavoro. Le ho detto che le faremo sapere. Presto? Non lo so, dipende. Le ho detto che forse le faremo sapere. Va bene, aspetto allora. Può andare. Per me può andare. Allora vado. Vada, vada pure. Prima di andarmene debbo consegnarle una lettera. Una lettera? Le consiglierei di leggerla. Forse dopo averla letta potrà guardarmi in modo diverso. Va bene. La metta lì sopra il tavolo. Dovrebbe leggerla. Anzi, le consiglio proprio di leggerla. Sì, forse lo farò. Ma non lo so, dipende da come mi girano i coglioni. Ci sono scritte cose interessanti là dentro. Posso immaginare. Su, forza, la legga. Non so mica se mi va, eh. Io non ho bisogno della sua lettera. È un pezzo di carta, comunista. Un pezzo di carta. Tanto prima o poi dovrà farci i conti. E che mai ci sarà là dentro? Me lo immagino. Stronzate. Magari l'avrà scritta lei. Siete capaci di tutto, voi comunisti. La legga. Ma lei pensa davvero che una lettera possa cambiare il destino di una persona? Si sbaglia di grosso. Io credo nel potere delle parole. È un'ora che parliamo. Ne abbiamo dette anche troppe. Le sue tutte sbagliate. Tutte fasulle. Tanto lo sappiamo. Lei è un comunista. Tesserato nei giovani comunisti nel 1976. Su, la smetta di fingere, sappiamo tutto. Chi crede di portare per il culo? Frequentava estremisti a Bologna, eh? Se vuole le faccio persino i nomi, sappiamo tutto, tutto! Lo sapevo. Lei è un codardo. Adesso ha paura di aprire quella busta. Non ha i coglioni. Nessuna paura. Figurati se mi impressiona questa cosa. Eccola qua, la tua bastarda lettera. Credi per caso di farmi paura? Se avevo paura non stavo qui a filtrare le brave persone dei comunisti, la paglia della pula. Tu non entrerai mai nella nostra azienda. Vulcanica non può permettersi di avere proprio interno comunisti. Voi siete la feccia della storia, avete fallito, è caduto il muro di Berlino. Non siete neanche rappresentati in Parlamento. Ecco qua, se mi tira il culo, la cestino la tua lettera, guarda un po', la sfracello, la distruggo. E allora se non hai paura, apri quella busta. Su, forza, aprila, aprila. Tu non hai la coscienza pulita. Aprila. Apri la lettera. E me lo ordini tu. Ma chi ti credi di essere? Non sei nessuno, sei solo un disoccupato. Pensavi di sapere tutto di me? Ma dimenticavi la tua di storia. Il passato che ritorna, io non ci scherzerei troppo. Leggila, vedrai che poi cambia tutto. Il passato che ritorna, dottore. Io posso fottermene altamente. Non te l'aspettavi, vero? Io non ho paura. È semplice. Basta leggere. Dopo saremo tutti più tranquilli. Molto più tranquilli. Leggila. No. Ho deciso che non la leggerò. Non voglio leggerla. Non mi interessa. Adesso devi. Aprila. Guarda. Guarda cosa faccio. La brucio la tua lettera. La brucio. Leggila. Ti conviene. Leggila. No. No. Te ne pentirai. Te ne pentirai! Signorina. Dica, dottore. Oggi non farò la pausa pranzo. Quando è il prossimo? È già qui, da 20 minuti.